cose che ti amo. Chissà perché ce lo chiediamo. Amore lontano. Chissà perché ti amo. Ringraziamo per oggi che domani non sappiamo. Sono un grande ragazzo, un po' testa di cazzo, che dà tutto a chi ama, risponde a chi chiama, che protegge il suo sogno, mentre schegge di bombe ci hanno messo in ginocchio. Non mostrargli il tuo cuore, mi dici se soffro, offro tutto il mio regno, ti do quello che posso, vedo un vecchio sul treno, dignitoso e fiero, anche se non è ricco e non prende l'aereo. Tornerà da sua moglie che l'aspetta in pensiero, per trovare qualcosa di buono e di vero. Amore lontano, chissà perché ti ama, sai. Amore lontano, chissà perché ti amo. Chissà perché ce lo chiediamo, sai. Amore lontano, chissà perché ti amo. Ringraziamo per oggi che domani non sappiamo. Il mio amore, il tuo amore mi tiene sveglio, mi insegno ogni giorno, mi impegno ogni giorno, mi sveglio al mattino e non è cosa da tutti, mi dai voglia di fare anche coi sogni distrutti. Ora sono lontano, non conosco nessuno a cui dire ti amo, quindi adesso lo scrivo e ti dico ti amo nel momento in cui arrivo. Coi tuoi baci mi attivo, col tuo amore mi rilasso, voglio stare tranquillo anche un passo dal basso. Ho già visto l'amore diventare nemico e mi piace che capisci che dico.